Allora, 7 e 6 secondi primi. Chi vi parla è l'Ariele. In un freddissimo lunedì 17 di dicembre. Voi che siete ancora in casa, preparatevi, eh. Vi do i consigli del nonno. Mettete la sciarpa, guantini. Fuori fa freddo, almeno qui. Io posso parlare di Milano e Varesotto. Per gli altri, insomma, mettete il naso fuori dalla finestra e rendetevene conto da soli. Diamo inizio, se il nostro regista Spadino gli va, ti va? Gli va, perfetto. Alla puntata 147 di Pane, Burro e Rock and Roll. La nostra colazione servita con amore dalle frequenze di Rock FM. Vi tiriamo per le orecchie fino alle 9. Pane, burro e rock and roll. La migliore in circolazione. La tua colazione rock. Che siglona, ragazzi. Pane, burro e rock and roll. 147 giorni che l'ascolto e ne sono ancora orgoglioso. Guarda te. It every good indeed. Yeah. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata. No, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Altro giro, altra corsa. Entriamo ufficialmente con quest'oggi nella seconda settimana di Pane, Burro e Rock and Roll speciale Buon Natale però rock. Arriveremo fino a venerdì occupandoci con i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici di tutte le problematiche che si porta dietro l'arrivo del Natale. Siamo rocker, studiamo da 147 puntate cosa è rock e cosa non lo è, e ci siamo sicuramente resi conto dalle primissime puntate che lamentarsi è rock, e quindi se avete lamentere da fare segnalatele alle nostre coordinate. Permettetemi di salutare la nostra redazione che alla spicciola arriverà anche quest'oggi negli studi di Rock FM, e ovviamente il nostro faro di riferimento, oltre al lampione crepuscolare bello acceso lì pronto che illumina il nostro mixer, il nostro altro lampione che si chiama Roberto Fricantoni, anche quest'oggi, se l'Eurostar vorrà, arriverà con noi. Speriamo non sia un Eurofreezer, no? Ha fatto la battuta così a inizio. Tenetevi forte, è iniziato PBR. Yeah. The Blues Brothers, Sweet Home Chicago. the baby animal, see what I see. No, happy, hey, baby, don't you wanna go back to that same old place, sweet home Chicago. Chicago, si lascia andare in coda a questa jam. 7-9 minuti primi, vi scaldiamo noi con la musica di Rock FM, la grande musica di Rock FM. La musica vi scalda, poi noi invece in voce facciamo di tutto per rovinarvi un lunedì 17, se ne fosse bisogno. Vedo con piacere, mentre passo il mio tempo a cancellare gli spam di ariel@radiorockfm.com, e ne ho approfittato anche per ricordarvi la casella di posta elettronica. Ci eravamo lasciati venerdì con una casella non funzionante e ritorniamo invece in pieno regime anche di mail, quindi ariel@radiorockfm.com. Tra mille spam e quant'altro ritrovo anche i vostri messaggi, i vostri commenti. Perché è importante in questa trasmissione radiofonica l'interazione con gli amici e le amiche là fuori. Canale preferenziale, ovviamente, il numero di SMS. Sarà anche che a quest'ora non tutti, per fortuna, sono già lì piazzati davanti alla loro postazione computer. Per fortuna, nel senso che non state ancora lavorando, ma manca poco, ve lo ricordo. così, per fare una segnalazione gentile. Vi ricordo il numero di SMS, che è 335 100 100. Sì, 100 100, ci riprovo, aspetta. 335 100 7777. Davamo inizio all'interazione con le segnalazioni meteorologiche, che fanno sempre provincia e quindi sempre ben accette a Pane, Burro e Rock and Roll, che è un programma provinciale, ve lo ricordo. Un messaggio recita semplicemente durissima. E l'altro, freddo, ma non vi sembra che siano le temperature medie stagionali? Ciao Mario da Cogoleto. Ma ci sta Mario, guarda. Io sulle temperature medie stagionali non sono mai stato ferratissimo, come in molte altre materie, ma sulle temperature medie stagionali ancora peggio. Va bene. Via mail invece tante segnalazioni su luminari e quant'altro. Da venerdì direi che abbiamo sdoganato anche il problema sonoro che si porta dietro l'arrivo del Natale. Nel corso di questa settimana abbiamo un paio di missioni da compiere. Una è stata appuntata dalla redazione, voi non ne sapete ancora nulla, ma lo scopriremo nel corso di questa settimana di diretta. E l'altra invece dovreste ricordarvela se avete ascoltato le puntate di settimana scorsa. Abbiamo Simone, che lavora in un negozio del centro di Brugherio, un negozio di articoli sportivi. In questo centro di Brugherio, non mi viene Brugherio alle 7 del mattino, ci riprovo. In questo negozio al centro di Brugherio esiste l'impianto Hi-Fi che manda in programmazione per tutta la piazza in filo di fusione musica natalizia. Con Simone stiamo organizzando il colpo gobbo che avverrà questa settimana, grazie al quale trasmetteremo il nostro brano natalizio anziché i loro brani natalizi, e vedremo cosa accadrà. Sono curioso dell'interazione di quest'oggi perché nel weekend sul sito di Rock FM è stato pubblicato il link sia per scaricare gratuitamente Buon Natale per Rock, che ascolteremo ovviamente anche quest'oggi, ma soprattutto è stato pubblicato il link per intravedere un'anteprima del nostro calendario. Il calendario 2008, l'anno della svolta, che finalmente è nato, è qui nei nostri studi e qualcuno di voi probabilmente ha già intravisto delle preview. Ero curioso di sentire i commenti, ecco. Intanto vi lascio in compagnia della bollente chitarra di Carlos Santana, Song of the Wind. Sempre per restare meteorologici, no? La canzone del vento, via. No, non c'entra niente con la canzone del sole. Questa è la canzone del vento. We'll be right back. maledetto lunedì mattina da affrontare insieme sulle frequenze di Rock FM. Fortuna che è arrivato anche quest'oggi da Bologna Roberto Fricantoni. Ai ai ai, un saluto a tutti, buongiorno, buon lunedì. Ma non inizi così la settimana. Cosa c'è? Che depressione. Perché? Ho visto che non solo oggi è lunedì, primo giorno lavorativo della settimana, ma è anche il 17. E quindi? E quindi noi non teniamo in alcun conto, e dunque non temiamo la cabala. No, non c'è. E andiamo avanti. Ce ne facciamo un baffo e ci facciamo. Sa come dicono i romani? Non ce ne può fregare de meno. Qual era la pronuncia? Da schifo. Pensavo lo dicesse in latino, invece l'hai venuto in romano. Se vuole glielo dico anche in latino. Non ce ne può fregare de meno. Almanacco del 17 di dicembre. Senta qua, 546, guerra gotica. Sì. Lei ha partecipato alla guerra Naturalmente, gotica? Naturalmente, io sono come il numero uno di Alan Ford. Ho milioni e milioni, ma che dico milioni? Migliaia di anni sulle spalle. E si vedono. Totila e i suoi ostrogoti. O Totila, forse era Totila. Sapevo. Totila e i suoi ostrogoti entrano a Roma grazie al tradimento della guarnigione isaurica. Isaurica. O isaurica. O isaurica. Aia. Da Isacco, no? Isaurica. Ma cosa dice? Da Isacco. Isacco Rizzi. Esatto, frega, volevo tirarlo dentro. Il nostro redazionista. 1903. Io la vado veloce, se no non finiamo. Va benissimo. Più. Primo volo dei fratelli Wright. Che sono quelli che volavano. Sì, i Wright, fratelli Wright. I fratelli Giusto. I fratelli Giusto, molto bene, traduzione esatta. 1969. Cosa è successo? Me lo dica. L'aviazione degli Stati Uniti d'America annuncia che le sue investigazioni sugli UFO non hanno dato prove dell'esistenza di astronavi extraterrestri. Ma è soltanto perché, glielo dice il Mike Buongiorno che c'è in me, non hanno saputo guardare nella giusta direzione. Perché se guardavano di là? Bastava andare a destra dopo la seconda galassia. E si vedeva? E si vedevano i protonziani. I protonziani, lei li conosce? Ha mai avuto modo di parlarci? Con i protonziani? Ma certo, è il mio hobby quotidiano. Senta qua, 1989, torni freak, festeggiamo il compleanno dei Simpson. Che delizia, il mio cartone animato, il mio cartoon preferito. Si debuttavano il 17 dicembre del 1986 sulla Fox. Me la segno questa data. Lei è mai stato intervistato dalla Fox? No, e secondo me artisticamente mi è nuociuto. Sì, e anche loro si sono persi una grande intervista. Infatti. Le avrebbero potuto chiedere, ma la Bologna di allora com'era? Ma la Bologna di oggi com'è? Me lo dici, facciamo così, Spadino mette un pezzo e lei me lo racconta. Glielo racconterò senz'altro. Ma com'era la Bologna di allora? Guardi, le parlo della Bologna di oggi. Musica, grazie. In confronto alla Bologna di allora. Grazie, Bologna, Spadino. Deve sapere. Bla bla bla bla. How long, how long will I slide or separate my side? I don't believe it's been. Jolly New Year. Make sure that Christmas comes once a year. Rock you. intitola How Long, e così è targato il ritorno degli Eagles. Sì, sì, proprio loro fanno risentire con un nuovo lavoro presentato da questa How Long. Brevissima pausa per noi e torniamo con la seconda parte di Pane, Burro e Rock and Roll. Non mollate, restate incollati alla nostra frequenza.